con Lia Fursi della 22ª edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 31 maggio al 5 giugno 2019. Lia, ben trovata. Lo presentiamo per chi non lo conoscesse e raccontiamo anche storicamente il ruolo di questo festival. Dunque, Cinema Ambiente è un festival che, vabbè, come dice il nome stesso, si occupa di ambiente, raccontando l'ambiente attraverso il cinema. Quest'anno siamo ormai alla 22ª edizione, quindi siamo ormai navigati. Si svolge ovviamente a Torino, principalmente al Cinema Massimo. Iniziamo domani, 31 maggio, chiudiamo il festival come consuetudine il 5 giugno, che è la giornata mondiale dell'ambiente. Ci racconti un po' quante opere sono ospitate quest'anno? Allora, più o meno sono 140 i film, divisi tra la parte di festival, come dire, dedicata alla cittadinanza adulta, e la parte di festival che è Cinema Ambiente Junior, quindi dedicata ai ragazzi e ai bambini delle scuole. Sono tutti suddivisi in diverse categorie. Ci sono i principali concorsi, che sono il concorso dei documentari internazionali, il concorso One Hour, il concorso documentari italiani e il concorso cortometraggi, delle sezioni di panorama, eventi speciali e poi appunto tutto il programma di mattinate per le scuole, che è iniziato già a fine marzo, quindi stiamo già andando avanti con le proiezioni e tantissimi bambini e ragazzi che vengono al cinema. Quali sono le aree tematiche più indagate nei lavori? Dunque, le aree tematiche più indagate sono sostanzialmente, direi, due macro aree. La prima è quella dell'attivismo giovanile. Sono parecchi i film che si occupano di questa nuova onda verde che ormai è diffusa in tutto il pianeta, e non a caso l'edizione di quest'anno del festival è proprio dedicata alla Green Generation. E poi l'altra grande area tematica è quella dell'analisi dell'antropocene. Ormai siamo entrati in questa nuova era geologica, caratterizzata proprio dall'impatto che le attività umane hanno sul pianeta, sugli ecosistemi e quindi la vivibilità e la sostenibilità dell'umanità sul pianeta. E sono tantissimi i film che appunto indagano i vari aspetti di questa nuova era geologica, appunto dall'impatto delle attività umane all'impatto dei cambiamenti climatici, allo sfruttamento che l'uomo fa delle risorse del pianeta. Ci sono delle pratiche virtuose che più ti hanno impressionato tra i tanti lavori proposti? Decisamente, perché sempre più spesso i film della cinematografia green propongono delle possibili soluzioni che ogni singolo cittadino, ogni singolo uomo può adottare nella propria vita quotidiana, soprattutto per quel che riguarda, ad esempio, la gestione dei rifiuti, l'alimentazione, quindi la lotta allo spreco del cibo, piuttosto che il cercare il cibo che sia sostenibile. E quello, devo dire, sono tra le soluzioni più adottabili da tutti noi. Quali sono i luoghi e gli orari del festival? Dunque, il festival inizia appunto domani, venerdì 31 maggio, e si conclude il 5 giugno. Luogo principale delle proiezioni è il Cinema Massimo, cui poi si affianca il Centro Studi Sereno Regis con delle proiezioni dedicate al programma del Panorama. Gli orari sono dal primo pomeriggio alla tarda serata, Tutto il programma comunque lo si può trovare sul sito del festival, che è www.cinemaambiente.it. L'ingresso è gratuito a tutte le proiezioni, a tutti gli appuntamenti, gli incontri. È prevista anche la presenza di autori, autrici? Quasi tutti i film sono accompagnati da o gli autori oppure da esperti della tematica affrontata dal film, quindi a ogni film segue sempre un incontro con il pubblico in sala per appunto approfondire il discorso di ciascun film. Allora, ricordiamo la 22esima edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 31 maggio al 5 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Lia Furxi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a voi.